Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio, nuovo appuntamento finale della settimana. Allora, oggi abbiamo deciso di dare un'occhiata al mercato che abbiamo un po' trascurato in termini di approfondimento a Salva Danaio da qualche tempo. Quella che stiamo lasciando oggi è stata una settimana piuttosto interessante, particolarmente negativa per il mercato azionario per tanti motivi che stamattina andremo sicuramente a riepilogare con i nostri ospiti, ma come sempre naturalmente ciò che ci interessa fare è gettare uno sguardo in avanti. Molti indicano come l'estate che stiamo vivendo come un'estate all'insegna sicuramente della prudenza dopo quello che è successo 2 anni fa e anche l'anno scorso, anche se l'anno scorso poi la crisi si è particolarmente acuita in autunno. Molti operatori insomma cercheranno di andare probabilmente in vacanza in maniera serena, liberandosi di un po' di posizioni in attesa di capire cosa succederà a settembre, se ripartirà l'industria, cosa indicheranno i dati macroeconomici a partire appunto dalla stagione autunnale. Ieri abbiamo visto comunque dopo 5 giornate consecutive di ribasso tentativo di recupero per la borsa che oggi riannulla di nuovo tutto. Abbiamo un calo a Parigi dello 0,7%, così come a Francoforte. Londra sta perdendo 0,5%. Milano perde un po' di più, ancora una volta nel bene o nel male Milano, per la consueta questione della particolare composizione del listino, amplifica le tendenze nel bene e nel male. Abbiamo l'euro sul dollaro che stamattina sta quotando 1,3887, quindi abbiamo una tendenza di recupero per il biglietto verde rispetto alla moneta unica europea. La buona notizia, che come sempre dico speriamo che si traduca presto in prezzi dai distributori un po' più favorevoli, il petrolio che sta scendendo molto, è sceso repentinamente, è arrivato a $60 al barile. Insomma, di temi da affrontare questa mattina ne abbiamo molti, ma soprattutto ne abbiamo uno centrale che è la stagione delle trimestrali, perché sicuramente questo sarà il tema che dominerà l'attenzione degli operatori da qui ai prossimi giorni. A Piazza Affari cominceranno a fine luglio, negli Stati Uniti invece Corporate America ha già cominciato a rassegnare i suoi dati e ha cominciato come al solito il gigante dell'alluminio Alcoa, che ha chiuso il secondo trimestre dell'anno in perdita, però a quanto pare sono state delle perdite inferiori alle attese del mercato, per cui questa è stata una notizia colta in maniera positiva da parte degli investitori. Però di fronte a tutto questo scenario, cosa deve fare un piccolo risparmiatore pronto, magari perché ha parcheggiato nei mesi passati un po' di liquidità ed è pronto ad agire sul mercato azionario? Come fare a cogliere anche le opportunità di mercato e quali sono soprattutto queste opportunità? Sono tutte domande che io stamattina girerò intanto a Francesco De Astis, responsabile dei fondi azionari Italia ed Euro di Eurizon Capital SGR. De Astis è qui a Milano con me, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. È a Milano nel senso che è qui in studio con me. E anche a Milano Giovanni Vietti, ma è collegato telefonicamente con noi, responsabile azionario di Allianz Global Investors Italia. Vietti, benvenuto. Sì, buongiorno. E buongiorno anche a Furio Impellizzeri, invece vicepresidente di Copernico SIM, collegato telefonicamente lo stesso con noi. Impellizzeri, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Grazie di essere con noi, a voi tutti. E naturalmente io vorrei anche lo stimolo degli ascoltatori rispetto al tema di questa mattina. 800 24 00 24 è il numero che come sempre potete utilizzare per interagire con noi. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Ho già dato qualche indicazione, qualche cifra rispetto a quello che sta succedendo stamattina sul mercato, però diamo un'occhiata un po' più approfondita ai temi che invece stanno caratterizzando la seduta di Piazza Affari. Vedo che si sta sempre di più assottigliando la pattuglia dei titoli con il segno più davanti. Adesso abbiamo Autogrill più 0,9, la Banca Popolare di Milano più 0,8, Ansaldo più 0,5, il Banco Popolare più 0,10%, ferma Parmalat, e poi iniziano i segni meno: Lottomatica meno 0,15, UbiBanca meno 0,17%. Ma i peggiori in assoluto, adesso stanno, vedo, anche accelerando a ribasso, sono Prysmian più 3,28%. Prysmian, tra l'altro, poi magari avremo anche modo di parlarne stamattina, è uno dei protagonisti della prima parte dell'anno. Bulgari meno 3, invece il lusso non continua a passarsela molto bene. A2A meno 2,95%, Buzzi Unicem meno 2% con Mediolanum, che adesso scende del 2,30%, meno 2 per Finmeccanica, meno 2 per Saipem, Unipol meno 1,84%, CIR meno 1,77%, Mediobanca in ribasso di 1,5%, con Pirelli. Quindi questa è la situazione, però di tutti questi argomenti parleremo nel corso della trasmissione. Adesso sentiamo un po' di fare facciamo un po' con la nostra scheda, come sempre, un punto un po' più generale della situazione sul mercato. Al giro di boa del semestre, sulle borse internazionali prevale la prudenza. Per ipotizzare un'inversione di tendenza è ancora presto e per molti il super rally messo a segno dai principali listini negli ultimi mesi altro non è che una correzione all'interno di un mercato ancora dominato dall'orso. Certo, segnali di ottimismo non mancano, ma è altrettanto vero che considerando il solo mese di giugno, le perdite registrate dalle principali borse sono state ancora una volta a doppia cifra, meno 11% Milano e Francoforte, meno 10% Parigi, meno 8% Londra. Ad archiviare il mese in positivo soltanto la borsa di Shanghai, con un rialzo del 13%. Bisogna tuttavia considerare che nel rally che è durato dal 9 marzo all'11 giugno, le borse hanno riguadagnato in media il 30% dopo la prima gelata dell'autunno del 2008 e i primi mesi del 2009. A conti fatti, i mercati finanziari sembrano aver scommesso sulla stabilizzazione della crisi e oggi stanno correggendo la loro linea dopo aver puntato e realizzato. È altrettanto vero però che per vedere un ritorno definitivo del toro bisognerà aspettare un recupero dei fondamentali. Un importante segnale per valutare lo stato di salute dei big internazionali saranno ancora una volta le trimestrali che prendono il via negli Stati Uniti in questi giorni. Ad aprire le danze è stato il colosso dell'alluminio Alcoa, che nella notte tra mercoledì e giovedì ha diffuso conti in rosso ma migliori delle attese. E la reazione delle borse fa ben sperare. Dopo una settimana costellata da ribassi, infatti, ieri le principali piazze finanziarie hanno archiviato la giornata con segno positivo, recuperando in parte le perdite messe a segno nei giorni precedenti. Eh sì, effettivamente Alcoa è stata un po' una sorpresa, perché a giudicare dalla repentina discesa che hanno subito i prezzi delle materie prime nell'ultimo periodo, perché la domanda generale, l'economia, insomma, può dire che sta rallentando, ovviamente non rappresenta esattamente l'indicazione giusta, ma data la recessione che sta vivendo un po' l'economia mondiale, sorprende appunto il fatto che il colosso di una di queste abbia presentato dei dati buoni, nel senso che comunque i dati presentano un bilancio in rosso, ma sono, come dire, dei dati negativi inferiori a le attese. Allora, quando, come dire, poi le notizie che il mercato si aspetta battono le attese generali, sono sempre notizie che vengono colte molto positivamente dalla borsa. Così è stato solo per una giornata nel corso della settimana. Insomma, però, che cosa stiamo vedendo? Allora, comincerei con Francesco De Astis, responsabile dei fondi azionari Italia ed Euro di Eurison Capital SGR. Adesso, a prescindere da quello che è successo ad Alcoa, la stagione delle trimestrali sarà un momento fondamentale per capire se davvero il peggio lo abbiamo lasciato alle spalle o se lo stiamo ancora vivendo, De Astis. Certo, no, assolutamente. Di solito il secondo Q dell'anno stagionalmente non ha una evidenza, diciamo, così segnaletica importantissima. Quest'anno probabilmente dobbiamo un attimo rivedere le nostre concezioni, nel senso che sicuramente, diciamo, la visibilità che si vive in questo momento è abbastanza scarsa, di conseguenza è estremamente importante vedere quelli che sono i risultati, e il mercato un po' lo sta dimostrando con questo sostanziale, diciamo, fase riflessiva che sta vivendo, che i segnali che appunto dovremmo aspettarci appunto dalle trimestrali risultano essere particolarmente importanti. Perché devono mostrarci se il film che abbiamo visto nel primo Q dell'anno continua anche appunto nella seconda parte, e soprattutto, diciamo, se sarà necessario effettuare ulteriori revisioni di stime al ribasso, perché qualora questo non fosse necessario, diciamo che i mercati girano su delle valutazioni estremamente interessanti. Mm-hmm. Quindi di conseguenza è molto importante vedere i numeri che usciranno e un po' quelle che sono le guidance, le linee guida, diciamo, che qualche società potrebbe dare per il proseguo dell'anno. Volevo fare solo una breve traduzione per i nostri ascoltatori: quando parla di primo Q, secondo Q, si riferisce al quarter, quindi al trimestre appunto delle società. Giovanni Vietti, responsabile azionario di Allianz Global Investors Italia, chiedo anche a lei un commento rispetto alle previsioni che è possibile fare sulla stagione delle trimestrali, poi ci focalizzeremo soprattutto su Piazza Affari, ma in termini generali rispetto a come stavano andando le cose anche alla fine del 2008, la chiusura del primo semestre di quest'anno la possiamo considerare soddisfacente e che indicazioni arriveranno, a suo avviso, mediamente dalle società, anche se so che per nessuno è facile sbilanciarsi in previsioni. Beh, oddio, la performance del semestre, per come si erano messe le cose ad inizio anno, può sicuramente essere considerata positiva. Insomma, a marzo i prezzi incorporavano quasi il collasso del sistema economico e il fallimento di parte del sistema finanziario. Poi in realtà le misure messe in atto sia a livello monetario che a livello fiscale hanno comunque consentito, almeno per il momento, di evitare questa situazione. La situazione è stata gestita con una tempestività e un'intensità notevole. Insomma, le autorità non hanno commesso l'errore che avevano commesso per esempio nel 29, che da un certo punto di vista è la crisi più simile a quella attuale. Per quanto riguarda la reporting season, il secondo trimestre, le aspettative per il secondo trimestre sono comunque piuttosto basse, perché ci si aspetta un calo dei profitti in America rispetto al secondo trimestre del 2008 di circa il 35%. E del 45% in Europa. Questi numeri non sono tanto diversi da quello che è successo nel primo trimestre di quest'anno rispetto al primo trimestre dell'anno precedente. E quindi, da questo punto di vista, essendo le stime state già ridotte molto dagli analisti, forse è difficile pensare a dei valori significativamente diversi. E probabilmente la vera sfida non è tanto sul secondo trimestre, ma è sulla seconda parte dell'anno, perché qui le aspettative cominciano a migliorare. Nel terzo trimestre ci si aspetta un calo del 20% e poi una grossa crescita nel quarto trimestre, che rispetto al quarto trimestre del 2008 ha il vantaggio di avere un confronto favorevole, certo, perché il quarto trimestre dell'anno scorso era stato estremamente negativo. Sarà anche una grossa crescita, immagino, Vietti, perché si partirà da situazioni molto basse. Sì, hanno pesato moltissimo le svalutazioni bancarie, certo, però anche al di là delle componenti straordinarie, comunque gli analisti stanno cominciando a incorporare una crescita dei profitti. Il 2010, le stime per il 2010 ipotizzano una crescita degli utili rispetto al 2009 di quasi il 25%, quindi queste aspettative, a nostro modo di vedere, sono troppo ottimistiche. E adesso vedremo, la reporting season è un'occasione importante, ripeto, non soltanto per i risultati del secondo trimestre, ma per le linee guida che le società daranno sull'anno, perché a questo punto a metà dell'anno le società devono per forza dare delle indicazioni, daranno un aggiornamento su quello che si aspettano nella seconda parte, e qui il rischio delusione potrebbe invece essere maggiore, perché il mercato in qualche modo si aspetta una ripresa, anche se lenta, ma comunque visibile, e qui potrebbero arrivare delle delusioni. Non è stato così per Alcoa, perché in realtà i risultati di Alcoa sono piaciuti di fatto soltanto nell'after hour, perché cioè nel dopo mercato, dopo l'annuncio, perché il giorno dopo il titolo ha chiuso addirittura in calo rispetto al giorno precedente. Però lì sono state date indicazioni comunque abbastanza confortanti anche per la seconda parte dell'anno, però la società non è che goda di una credibilità particolare. Il tema è il rischio comunque delusione su quello che potrebbe essere rappresentato dai bilanci della società nei prossimi mesi, quindi anche in virtù di questo, probabilmente come Vietti la pensano in molti, a giudicare anche da questa tendenza che il mercato ha manifestato in giugno. Tra l'altro c'è una domanda interessante di un ascoltatore, comincio subito a porvele: le borse hanno scontato i risultati del vertice G8? In pratica i mercati hanno provvisto i risultati del vertice? A me sembra che questo mercato si sia totalmente disinteressato del G8 all'Aquila, De Astis. Sì, in effetti non ha avuto nessun impatto praticamente su quelli che sono gli andamenti del mercato, che mi sembra che siano decisamente più focalizzati nel vedere appunto quale sarà la futura reporting season. Cosa che dovrebbero fare sempre, ragionevolmente peraltro. Poi certo, a prescindere da questi vertici, che sono anche l'occasione in questo momento per fare un po' un punto sulle regole della finanza, però questa non è stata, mi pare, l'occasione. In Pellizzeri, adesso coinvolgo anche lei naturalmente, vicepresidente di Copernico SIM. So che la domanda a bruciapelo non piace ai professionisti della consulenza nel settore del risparmio e dell'investimento, io però gliela faccio lo stesso. E dato il particolare momento di mercato, qual è l'asset allocation in termini generali che state suggerendo ai vostri clienti? Io questa chiaramente le chiedo proprio una ricetta di carattere generale, perché ogni asset allocation va definita a seconda del profilo di rischio che la persona ha, che il risparmiatore ha, che l'investitore ha, e poi di tutte le sue caratteristiche individuali. Ma è possibile, secondo lei, data la fase di mercato, estrapolare una ricetta generale? Ma la ringrazio della doverosa premessa sulla difficoltà della risposta. Vorrei dire che certamente concordo anche con quanto dicevano prima i colleghi, che partendo dal presupposto che per vedere il ritorno definitivo del toro bisognerà comunque aspettare un recupero sui fondamentali aziendali o comunque un ritorno alla crescita degli utili, È abbastanza presumibile che in un'ottica di medio-lungo periodo oggi l'azionario rappresenti un'occasione di investimento abbastanza unica. Ritengo che i prezzi abbiano già scontato gli scenari che potevano essere apocalittici e quindi in effetti e sia giusto per il risparmiatore che è rimasto alla finestra o comunque in liquidità approfittare di queste occasioni. Devo anche dire che dal momento che l'unica certezza che ci può muovere sul mercato è quello di essere consapevoli che sarà sempre guidato dall'incertezza, di questo dobbiamo tenere doverosamente conto, il consigliare così tot court nel risparmiatore su un asset allocation generalista mi sembra veramente una cosa abbastanza imprudente. Credo che sia doveroso tener conto di quali siano gli orizzonti temporali che contraddistinguono le sue e i suoi obiettivi, di quali siano le sue esigenze, di quale sia la sua tolleranza alla volatilità. E fatte queste doverose premesse direi che oggi può cominciare, così genericamente parlando, a impegnarsi gradualmente sul mercato dell'equity in maniera più sostanziosa, magari servendosi di piani d'accumulo che vadano a ridurre quello che è il rischio dell'errore del timing, o comunque magari con degli switch programmati da un investimento obbligazionario su un investimento azionario. Ecco, ritengo comunque, parlando di asset allocation, che forse oggi oltre agli Stati Uniti, che come sono essere i primi entrati nella crisi potrebbero essere quelli ad uscirne per primi, un occhio di riguardo vada forse posto ai mercati emergenti. Quindi infatti siamo ritornati a parlare del BRIC da qualche tempo, tanto che tra l'altro questi paesi invocano anche un peso sempre maggiore nei grandi organismi internazionali rappresentativi appunto delle principali economie in pelizzeri. Sì, anche se devo dire che farei un distinguo per quanto riguarda i paesi dell'est che oggi potrebbero essere in sofferenza per quanto riguarda la crisi del sistema finanziario o anche, sì, anche della quelli là Russia. Sembravano tutti sull'orlo della bancarotta fino a sei mesi fa, adesso invece sono temi completamente scomparsi anche dalle pagine dei giornali, ma anche questa è una cosa interessante. Certo, ma anche lì il clima in effetti, ma anche della stessa Russia che comunque dipende in maniera fortemente correlata all'energia e alle materie prime. Direi che forse l'America Latina, in particolare il Brasile e l'Asia, con in particolare la Cina, forse meritano un occhio di riguardo. Benissimo, insomma, di asset allocation. Lasciavo concludere in pelizzeri. No, ecco, per quanto riguarda diciamo invece la composizione obbligazionaria, credo che oggi il corporate comunque costituisca ancora un assetto da preferire rispetto ai governativi, ben selezionato ovviamente. Anche perché se andiamo a guardare quello che rendono i bot, vi do solamente il risultato dell'asta di questa mattina, il titolo annuale è sceso in termini di rendimento all'1,27%, il tre mesi allo 0,49%, per cui qua praticamente neanche più il parcheggio rappresenta il bot a tre mesi, però questo non significa che chi non voglia prendere delle posizioni rischiose appunto non possa continuare a fare quello che ha sempre fatto, cioè portare il suo denaro appunto nel titolo di Stato italiano. Allora vi faccio sentire una considerazione di Andrea e poi ricomincio il giro di commento sul tema di stamattina. Andrea da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno. La mia era una nota sul fattore psicologico che influenza i mercati finanziari e quindi Mr. Market. Se adesso vengono presentate le trimestrali in semplice raffronto alle trimestrali di un anno fa, in cui strutturalmente l'economia era completamente diversa, penso che presentare il dato meno 10, meno 20 rispetto a o vendite calate del 15% non serve assolutamente a nulla se non vi è un'analisi. E le porto a supporto di questa mia tesi un aneddoto. Nei primi mesi dell'anno c'erano tutti i telegiornali che dicevano borsa in discesa, mercati finanziari bruciati, centinaia di miliardi bruciati. Sì. In quel periodo io ho avuto il cosiddetto pelo nello stomaco e continuavo a comprare azioni, compravo Unicredit, compravo Intesa, eccetera, eccetera. Beh, io ho quasi, in certi casi, ho quasi raddoppiato il mio capitale. Uh-huh. Poi ovviamente ho venduto poco tempo fa prima dello sonno. Quindi il fattore psicologico influenza i piccoli risparmiatori, ma comunque molti anche grandi risparmiatori che non si fidano se i dati presentati sono solo un meno 20 senza nulla di che, oppure se la borsa brucia 100 miliardi senza raccontare nulla, senza analizzare. Questa è la mia considerazione. Guardi, ne prendiamo atto, Andrea, io la ringrazio molto. Adesso da questa considerazione partiamo nella seconda parte della nostra trasmissione. Peraltro questo è l'atteggiamento di un piccolo investitore, tanti invece non contestano, però osservano anche quello che invece hanno fatto gli investitori istituzionali che non sono riusciti a cogliere il re Rally che è iniziato a marzo, insomma, vabbè, poi ognuno si muove a seconda delle strategie anche che vengono individuate nella propria casa. Allora, oggi a Salvadanaio siamo ritornati a dare un'occhiata al mercato perché ci stiamo reimmergendo nella stagione delle trimestrali che è iniziata negli Stati Uniti e finito il primo semestre. Peraltro poi magari vi darò conto anche dei titoli di Piazza Affari che da gennaio a giugno si sono comportati meglio e peggio, con un caso curioso peraltro che stavo osservando questa mattina: il migliore e il peggiore in assoluto sono due titoli operanti praticamente quasi nello stesso comparto, CIR e Mondadori. Quindi, diciamo, ambito editoriale, CIR ha fatto più 60%, Mondadori meno 21%, anche se il peggiore in assoluto forse è l'Ottomatica, che ha chiuso il semestre con un calo del 22%. Però insomma, sui temi di Milano ci torniamo tra poco, perché due degli ospiti di stamattina li ho chiamati proprio per questo. Però avevamo anche così voglia di commentare la considerazione di Andrea da Pavia, che dice: io non ho tanto preso in considerazione quanto tutti i giornalisti dicevano, perché poi dobbiamo anche raccontarlo, però quello che succede quando le borse scendevano tanto, io non mi sono fatto cogliere, come dire, dallo spavento. In realtà, con il pelo sullo stomaco, sono entrato prepotentemente sul mercato e adesso posso dirmi soddisfatto. Però insomma, questo Francesco De Astis è Horizon Capital SGR, non è per tutti, dobbiamo dirlo. Lui magari ha una certa praticità col mercato azionario, ma... Ma sicuramente la percezione del rischio è un motore chiave dei mercati azionari, e indubbiamente, diciamo, il rischio era percepito ai livelli massimi proprio all'inizio di quest'anno, quando ovviamente, diciamo, c'era una assoluta volontà di star fuori da qualsiasi attività a rischio, e tra queste ovviamente principe è proprio l'azionario, che oltretutto è anche uno di quelli più facilmente liquidabili, quindi ha pagato oltretutto un prezzo altissimo proprio a questa avversione al rischio. È vero che nelle fasi di rigiro dei mercati azionari c'è una fase sostanzialmente in cui ci si muove senza il sostegno dei dati ovviamente dell'economia reale. I mercati, sappiamo, si muovono in una logica anticipatoria, quindi non è tanto importante, diciamo, quello che accade, ma con come praticamente viene percepito dagli investitori. Questo poi ha effetto indubbiamente sui prezzi e sugli indici di mercato. Quindi diciamo proprio questo, che c'è stato un momento in cui ascoltare ancora appunto le aziende davano delle sensazioni a metà degli anni del 2007 ancora estremamente positive, cioè le cose continuavano ad andare molto bene, quindi un approccio, diciamo, da basso verso l'alto dava una visione ancora positiva dell'investimento in azionario, così come agli inizi di quest'anno la visibilità delle aziende e il mood, cioè l'umore delle aziende era estremamente negativo. Ovviamente si trattava di anticipare quelli che erano appunto la possibilità di una ripresa del mercato. Indubbiamente abbiamo avuto delle conferme poi successivamente marzo e ad aprile, e in base a quelli che sono gli indicatori di fiducia, che sono degli indicatori anticipatori che ovviamente hanno anche indubbiamente sono in grado di anticipare in maniera abbastanza precisa poi quello che è il miglioramento dei dati dell'economia reale. Certo, sicuramente poi non vediamo più neanche quelle oscillazioni di mercato che vedevamo tra settembre e ottobre, quando da un giorno all'altro si scendeva del 10%, il giorno dopo si ricresceva del 10%. Comunque tutto sommato la situazione si è stabilizzata, sì, infatti, per cui anche questo può incoraggiare qualche esposizione sul mercato azionario un po' più convinta rispetto ovviamente a qualche mese fa. Ma sì, allora il VIX, che è appunto l'indicatore di volatilità, è attualmente a livelli storici molto elevato, ma è crollato rispetto appunto ai livelli raggiunti nel corso del 2008. Detto questo, noi francamente abbiamo una visione costruttiva, quindi positiva nei confronti dell'investimento azionario, perché riteniamo appunto che ci sono tutte le premesse per vedere un ciclo economico in ripresa. Ovviamente stiamo parlando di una crescita graduale, ovviamente stiamo parlando appunto di un ciclo che non ha un andamento progressivo, ma avrà una serie appunto di sottocicli in cui ovviamente faremo un po' di alti e bassi, però indubbiamente in un'ottica appunto di investimento di medio periodo, quindi non di brevissimo, indubbiamente acquistare rischio, quindi acquistare quote di azionario nel tempo, secondo me porterà con buona probabilità dei ritorni assolutamente positivi. Valutare l'azionario, valutare le singole aziende sulla base, ecco, del 2009, che probabilmente è un anno estremamente difficile, può essere poco indicativo, ecco, mettiamola così, quindi può essere fuorviante, per cui bisogna un attimo allungare, diciamo, il nostro orizzonte temporale. Allungare l'orizzonte temporale, anche se abbiamo appreso un'altra lezione terribile da questa crisi, è che anche il lungo periodo, che è sempre dato per vincente per l'investimento nel mercato azionario, è stata annullata, come dire, cancellata anche questa regola, che, come sappiamo bene, la crisi, insomma, ha portato a cancellare i risultati di borsa di 12 anni, perché ad un certo punto siamo ritornati sui minimi dal 97, per cui anche lì, insomma, perché poi vi chiedo, anche sollevando questo obiettivo, sollevando questa obiezione, che cosa ne pensate. 800 24 00 24, continuate ancora a prenotare i vostri interventi. È pronta Rosa da Bologna. Rosa, le chiedo ancora un attimo di pazienza, perché volevo invece entrare nel merito della situazione di Piazza Affari e delle società quotate a Milano. Intitolava qualche giorno fa Corriere Economia: Piazza Affari aspetta la sveglia degli utili, esattamente come succede su tutti gli altri mercati finanziari internazionali. Piazza Affari ha archiviato un giugno leggermente peggiore alle altre borse europee per i soliti motivi, ma non so se solo sono questi, legati alla composizione del listino. Adesso aspettiamo trepidanti anche l'inizio della stagione delle trimestrali a Milano. Giovanni Vietti, riprendo da lei. Che cosa ci dobbiamo aspettare dalle società italiane? Beh, nulla di particolarmente buono, nel senso che già i risultati del primo trimestre in Italia erano stati particolarmente negativi, e qui non c'era stata nessuna sorpresa positiva, mentre in America gli utili erano scesi un po' meno delle aspettative, in Europa sostanzialmente linea leggermente meglio, in Italia gli utili erano stati addirittura inferiori delle aspettative già molto basse. Concordo sul fatto che questi numeri vanno presi inquadrandoli in un contesto più generale, per cui uno non compra o vende sul risultato del trimestre. Però sicuramente sono cose da vedere, da valutare, perché qua stiamo comunque navigando a vista, per cui gli ultimi risultati sono quelli da cui si parte per fare le analisi. Certo, diceva spettatore prima, non siamo più nella situazione dell'anno scorso, è vero, siamo nella situazione attuale decisamente peggiore, cioè la disoccupazione in America 2 anni fa era al 4,5 e adesso siamo quasi al 10. La situazione va valutata, e quindi i risultati attuali sono quelli più significativi per poi partire a fare le stime. Tornando alle società italiane, non ci si aspetta nulla di particolarmente buono, perché insomma il secondo trimestre non dovrebbe essere molto diverso in termini di risultati rispetto al primo. E quindi, in sostanza, Vietti, se quello che succede in borsa anticipa un po' anche quello che potrebbe accadere nei conti delle società, che potrebbero raccontare i conti delle società, questo galoppo che alcune aziende hanno fatto del 40-50% dall'inizio dell'anno, mi sta dicendo che è del tutto ingiustificato. Pertanto, a conti fatti, quando poi li rassegneranno questi gruppi, scopriremo che non hanno meritato tutto questo premio della borsa? Ma sicuramente gli investitori si muovono in anticipo, perché non aspettano di vedere il dato più brutto per comprare, lo fanno sempre con qualche mese di anticipo. Questo però è pericoloso come ragionamento, perché molto spesso si anticipa qualcosa che non succede, o si anticipa troppo qualcosa che poi succederà, ma lo si anticipa troppo. Per cui è vera questa considerazione, però bisogna anche stare attenti a non esagerare, perché d'altronde l'abbiamo visto nel rally di marzo. L'abbiamo visto nel rally di marzo, comunque partivamo da livelli veramente molto molto bassi. Bisogna comunque sempre tener conto del contesto di cui stiamo parlando. Da quando è partita la crisi, i movimenti, quando ci sono dei cali così, così elevati, i rimbalzi di solito sono ultra violenti. Poi certo, se uno si perde il rimbalzo del 50% non è una cosa bella, però i mercati sono comunque sempre sotto del 40% dai massimi, e vanno comunque, ripeto, inquadrati. E qui la vera sfida è che il mercato a un certo punto ha dato per buono che il peggio è alle nostre spalle, e io su questo concordo, nel senso, però è la classica situazione, condizione necessaria, ma non è detto che sia sufficiente. Cioè il fatto che il peggio sia alle spalle di per sé non è sufficiente a giustificare il rimbalzo che abbiamo avuto dai minimi, perché qui bisogna dire che è il peggio alle spalle, ma il meglio quanto è meglio nella situazione attuale. E su questo che secondo me c'è parecchio contrasto di visioni, perché una serie di operatori e alcuni prezzi azionari di alcuni titoli, alcuni settori, soprattutto i settori più ciclici, incorporano una ripresa troppo veloce, troppo violenta, che probabilmente farà molta fatica. Tutti concordano sul fatto che questa crisi, che comunque, che se ne dica, e anche gli appelli a non dipingere le cose più brutte di quelle che sono, è la più grave del dopoguerra. Quindi su questo bisogna valutarlo, bisogna guardarlo con realismo, E quindi la situazione è estremamente complessa. Questa crisi è frutto di sbilanci che si sono creati in decenni e non è ipotizzabile che si risolva tutto in pochi trimestri. Per cui la situazione è estremamente complessa. Infatti. Per risolverla ci vorrà parecchio tempo. E allora le fughe in avanti che possono essere i rimbalzi tecnici sono pericolose. Poi io concordo che in un'ottica di medio periodo, però a medio periodo sono almeno 3 anni, questi sono prezzi comunque interessanti, però sono interessanti per un piano di accumulo. Una persona che si compra sistematicamente tutti i mesi, indipendentemente dal mercato, che faccia più 5 o meno 5, e se fa questa strategia partendo oggi, probabilmente avrà un ritorno interessante. Se uno entra oggi perché è convinto di avere toccato un livello particolarmente interessante e fa tutto oggi, probabilmente sbaglia, ma magari non sbaglia 3 anni, ma magari sbaglia 6 mesi, per cui siamo ancora nella fase in cui è il piano di accumulo che può essere considerato valido più che l'intervento diretto e violento su questi livelli. So che questo è un tema peraltro che piace molto anche a Furio in Pellizzeri di Copernico. Rosa da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Rosa. Allora, io volevo rispondere al fatto che appunto chi investe nei momenti così, che guadagna il doppio, tutte queste belle cose. Allora, io ho una per me notevole cifra investita in azioni, già da tanti tanti anni, che praticamente mi dicevano più la lascia lì, più è la sua pensione. Io nel momento che la borsa cadeva, andavo in banca e dicevo: cosa facciamo? Vendiamo? No, non vendiamo. Ora, tutti i miei investimenti sono lì. Sono lì. Io come faccio ad usare questi momenti per cogliere l'occasione? E poi un'altra cosa, ma se tutti vendessimo veramente per cogliere l'occasione dopo, allora l'azionario è solo per pochi e chi veramente conosce la situazione? Cioè, quindi, questa è la mia domanda. Certo, beh Rosa, chiaramente per possiamo rispondere in termini generali, poi bisognerebbe vedere anche quale tipo di investimenti ha, su quali azioni ha puntato e anche qua l'atteggiamento della banca, che poi non le permette di smobilizzare il suo investimento quando lei non si sente più sicura di questo, è tutto un altro argomento che richiederebbe una puntata a sé e su questo siamo intervenuti tante volte. Renato da Brescia invece mi pare di capire abbia un'esperienza del tutto contraria. Renato? Io dunque innanzitutto devo dire che sono un fai da te e da 30 anni bazzico in borsa. Devo onestamente dire che la borsa mi ha sempre fatto vivere bene. Guarda, c'è una mia amica che l'altra sera mi ha detto: io ci ho comprato casa. Sì, però sì, no, ma anche a dei miei amici ho fatto comprare casa, perché io ho un semplice atteggiamento verso la borsa. Qual è? Dunque, ci dia la sua ricetta. Dunque, la borsa è stato un investimento che mi ha sempre reso più di qualsiasi altro investimento. Io poi, siccome appunto da 30 anni ci bazzico dentro, anche se sono fai da te, mi sono accorto che dopo 2 o 3 anni di positivo la borsa va in negativo. Io alla fine del 2007, siccome erano 3 anni di positivo molto sostanzioso, ho realizzato il 50% dei miei risparmi e ho comprato delle obbligazioni in dollari perché pensavo che il dollaro si riprendesse, cosa che invece era avvenuta. Ovviamente non ho potuto prevedere la grande crisi perché quella non era nel mio. Allora cosa ho fatto? Io all'inizio di quest'anno, siccome adesso ho quasi 2 anni, un anno e più che era molto negativa, mi si sono liberati delle obbligazioni in dollaro, ho ricomprato in febbraio in borsa e devo dire, come ha detto qualcuno prima, che in alcuni titoli, specialmente l'Unicredit e la Banca Intesa, specialmente l'Unicredit, mi si sono raddoppiati i soldi. Ovviamente su quelli che avevo prima sto ancora perdendo, però io sono del parere che fino a che non sono obbligato a vendere non ci perdo niente. E questa mia teoria mi ha sempre fatto vivere in borsa, ecco. Renato, grazie anche a lei per la sua testimonianza, però il tema è anche un po' quello che giustamente diceva. Io mi sono accorto che anche il mercato è ciclico, dopo un po' che sale inevitabilmente inizia a scendere. Furio in Pellizzeri, io però insomma con lei, con cui ho avuto modo di chiacchierare prima della trasmissione, so che non le piace molto questo atteggiamento così un po', non dico spavaldo, perché poi anche l'ascoltatore che ci ha chiamato ormai da tanti anni una certa come dire dimestichezza con il mercato azionario l'avrà assunta, però insomma non è per tutti in ogni caso questo atteggiamento. Io su questo vorrei essere piuttosto ferma, non lo so. Ma, Sì, guardi, sono d'accordo con lei, cioè io direi che ci sono due modi di approcciare il mercato azionario. Uno è certamente più speculativo, o come diceva l'ascoltatore di Brescia, con un fai da te, che certamente può dare anche delle soddisfazioni quando uno ha delle capacità e anche magari fortuna. Viceversa, la maggior parte dei risparmiatori probabilmente non ha né le conoscenze, né il tempo, né la voglia, né l'esperienza per poter muoversi autonomamente, e quindi si affida magari a dei gestori professionali. Il problema, come diceva la signora Rosa, è che lei, pur da un decennio presente sul mercato azionario, ha resistito dietro la trincea, ma oggi comunque registra un risultato insoddisfacente, e questo è un problema che accomuna purtroppo moltissimi risparmiatori, in funzione di quello che diceva lei prima, cioè che nell'arco di un decennio il mercato oggi registra degli indici ancora negativi, e questo è l'assioma, il dogma sul quale si sono mossi quasi tutti gli operatori, contando sul fatto che nell'arco di decenni il risparmio investito nell'equity è sempre dato il miglior risultato. Prova ne è che i fondi pensione, in particolar modo quelli anglosassoni, fanno dell'equity il loro core business centrale nell'investimento. Uh-huh. Purtroppo questo decennio ha smentito un secolo di storia, ha ricalcato quello del 29, e purtroppo le delusioni sono certamente cocenti per tanti risparmiatori, come giustamente evidenziava la signora. Ecco perché torno un attimo sul discorso del piano d'accumulo. Esatto. Le faccio sentire quanto... allora anche Enrico da Cagliari in Pellizzeri. Sentiamo Enrico. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo portare una testimonianza sul mio modo di operare. Sì. Nel senso che io effetto, diciamo, un piano di accumulo che non ha variazioni temporali, ma sfrutto le variazioni dei prezzi. Se scelgo un titolo, come il titolo faccio un acquisto di una cifra abbastanza ridotta, intorno ai 2000 euro, mm-hmm. Come scende del 10%, faccio un altro acquisto sempre di 2000 euro sul titolo. Quindi abbiamo più che un pack, mi sembra una mediazione continua sui prezzi, Enrico. No, perché sull'ultimo acquisto, come fa il 10%? Se ne avessi dovuto fare 5 acquisti al ribasso, quindi avrei un prezzo medio abbastanza... Sull'ultimo acquisto, se fa un rimbalzo del 10%, io vendo. Quindi teoricamente sto vendendo con un prezzo, cioè sto vendendo in perdita, però mi abbasso la media dei prezzi. Però insomma, non appena però vede che il prezzo del titolo registra questo rialzo del 10%, lei si affretta a vendere. Credo che, come dire, il concetto e lo spirito del piano di accumulo sia leggermente diverso in Pellizzeri rispetto a questa strategia adottata dal nostro ascoltatore da Cagliari. Guardi, mi rifaccio a quello che diceva l'ascoltatore Andrea precedentemente, e su quanto influisca anche l'atteggiamento psicologico, la finanza comportamentale, perché credo che la maggior parte dei risparmiatori sappia che teoricamente, quando la situazione è catastrofica, quando il sangue scorre per le strade, sia quello il momento di tapparsi occhi e naso e di comprare a pieni mani. Però, anche se questo è saputo teoricamente, quanti in realtà hanno il coraggio di farlo? Come diceva prima l'ascoltatore, ci vuole il pelo sullo stomaco per muoversi una discreta dose di coraggio. Viceversa, con il piano d'accumulo, vuoi perché il risparmiatore è già impostato in un'ottica di lungo termine, vuoi perché ci dedica delle cifre più modeste, e raggiunge proprio questo obiettivo, cioè poter comprare anche in un mercato in fase di discendente, e quindi supera anche quell'emotività che caratterizza naturalmente l'andamento dei mercati, perché i media chiaramente enfatizzano le situazioni più dolorose, è normale sia così, fa più rumore. Sì, guarda, infatti tutte le volte che utilizziamo il termine la borsa ha bruciato 100 miliardi di euro di capitalizzazione, non le dico che cosa non ci arriva, ci contestano sempre, insomma, anche questo approccio in termini comunicativi, però che la borsa crea 100 miliardi quando sale, se si usa sempre il termine brucia non si usa mai il termine crea, che viceversa dovrebbe essere assolutamente speculare, e quindi infonderebbe magari chissà un clima di maggior serenità e fiducia, però capisco sia così, cioè i media così operano, e naturalmente con il piano accumulo a cui si dedicano le cifre più contenute si riesce a sopperire a questo tipo di problema. Francesco De Astis, ci rimangono un paio di minuti di tempo, richiudo con lei e allora magari con lei anche un commento su quello che dobbiamo aspettarci intanto da Piazza Affari, da questa stagione di trimestrali. Qualche indicazione l'abbiamo data, chi sarà in grado di darci secondo lei in termini di conti e di bilancio le maggiori soddisfazioni, le banche, so che poi siete in palese conflitto di interessi naturalmente, quindi è difficile già dare un giudizio in casa propria, però sono fuori dal peggio, le banche italiane che si sono salvate dalla crisi che ha travolto invece tutto il panorama finanziario mondiale, il settore petrolifero, grande attenzione in questo momento con il petrolio che scende tanto. A quale settore guardiamo a Milano? Ma guardi, per quanto riguarda le banche, bisogna dire che indubbiamente le banche italiane, essendo diciamo prevalentemente domestiche e retail, sono quelle che alla fin fine hanno risentito meno della crisi finanziaria, ma che probabilmente sono destinate a risentire abbastanza pesantemente della crisi dell'economia reale, per cui sarà molto importante vedere praticamente sui dati a causa loro poi anche le aziende di conseguenza, perché non hanno credito, ma questo è un altro problema che lasciamo. Diciamo che sono legate a doppio filo le sorti dell'attività appunto di prestito delle banche e la sopravvivenza appunto delle aziende. Diciamo che sarà molto importante appunto in queste trimestrali vedere quali, più che vedere la parte diciamo fino all'utile operativo, che non dovrebbe offrire grosse sorprese, quindi rispetto a quanto atteso, vedere sostanzialmente quanti saranno gli accantonamenti fatti a fronte appunto diciamo dei crediti incagliati, quindi vedere un attimo qual è il segnale che ci viene dato sulla qualità del credito, che generalmente dicevo, per quanto riguarda il secondo trimestre non, diciamo, è un dato non particolarmente significativo. Quest'anno potrebbe essere più significativo, mm-hmm. in quanto probabilmente il primo trimestre è stato caratterizzato diciamo da un accantonamenti forse meno alti di quanto ci si aspettava, e quindi per evitare di caricare la seconda parte dell'anno magari con un eccesso di provision di accantonamenti, probabilmente dal secondo trimestre vedremo delle sorprese negative da sotto questo profilo. Per quanto riguarda le altre aziende, in particolar modo gli industriali, probabilmente avremo sorprese meno positive da quelle più legate al ciclo, mm-hmm. ovviamente alla domanda, magari qualche sorpresa positiva da quelle legate alle infrastrutture. E insomma, cominceremo ad alzare il vero su tutto questo solamente alla fine del mese. Intanto accontentiamoci, ma non è insomma non accontentarsi di poco conto, di vedere quello che sta accadendo negli Stati Uniti, perché se ripartono là ripartiamo un po' tutti. Grazie a Francesco De Astis, Horizon Capital SGR, ben trovato, Salvadanaio, speriamo di risentirci presto. Grazie a Furio Impellizzeri, vicepresidente di Copernicus IM, e Giovanni Vietti, Allianz Global Investors Italia. Salvadanaio torna lunedì, buon fine settimana a tutti.